sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Con Tremonti Bond e fondo di garanzia, le banche non hanno più alibi. Ora è guerra alla restrizione del credito, dice la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Piano casa, il governo incontra le regioni dopo le modifiche. Berlusconi, valuteremo con loro se procedere con un decreto o un disegno di legge. Testamento biologico bocciato, l'emendamento sull'articolo 3. Resta l'obbligo di alimentazione e idratazione artificiale. Barack Obama dichiara guerra al narcotraffico dei cartelli messicani e invia centinaia di militari a presidiare il confine. Un uomo si dà fuoco a Roma davanti al Campidoglio, aiutate. Mi sono disoccupato, ha detto ai soccorritori. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Il primo appuntamento era stato una ventina di giorni fa. Oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti torna a riunire le imprese, i sindacati e le banche per il secondo Credit and Liquidity Day. Per fare il punto, insomma, sulla crisi. I lavori, oggi come 20 giorni fa, li sta seguendo il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Buongiorno ai nostri ascoltatori, una seconda giornata questa per la liquidità che ha visto una forte accelerazione da parte del governo. Due le conferme, è stato siglato tra esecutivi ed associazione delle banche il protocollo che renderà di fatto disponibili in 60 giorni risorse pari a circa 10 miliardi di euro attraverso i cosiddetti Tremonti Bond. Il fondo di garanzia per le imprese sale inoltre a 1,6 miliardi di euro. Soddisfatte le imprese che dovrebbero così veder venir meno il pericolo della stretta creditizia. Per la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, con le misure messe in campo da Palazzo Chigi, le banche non hanno più alibi. Ascoltiamo le sue parole. Ad oggi, con questi due strumenti che diventeranno operativi il 9 aprile, l'uno e l'altro comunque in poche settimane, possiamo combattere la restrizione del credito in modo serio. Come diceva prima anche il presidente Faissola, e ho detto io anche più volte, con questi strumenti francamente oggi non ci sono più alibi per le banche di portare avanti una restrizione del credito. Dobbiamo dare un messaggio positivo a chi produce, ha commentato invece il ministro dell'economia Tremonti, che è tornato a difendere il ruolo che avranno i prefetti nella crisi, osservatori dell'erogazione del credito, li ha definiti Tremonti. Poi il ministro è tornato su quanto fatto dal governo per fronteggiare la crisi, sentiamo. Noi riteniamo, e credo che i dati della Commissione europea confermino quello che vi sto dicendo, noi in rapporto al nostro PIL abbiamo fatto assolutamente in linea e credo di più di altri paesi, con questi criteri di conteggio. In un qualche modo il credito che noi riteniamo si attiva con gli strumenti di cui stiamo discutendo a vario titolo è per i bond più di 150 miliardi e tra cassa depositi e SACE sono 20, e garanzie sono 20-30 miliardi di canale che si apre. Riteniamo compatibile con i nostri mezzi e appropriato data la situazione. Collaboreremo perché questi punti di intervento diano i risultati auspicati, ha detto infine il presidente dell'ABI, Corrado Faissola. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi ora passiamo a parlare del piano casa, dopo i chiarimenti arrivati ieri da Silvio Berlusconi. Il premier ha detto che il testo che circola non è il suo. In sostanza adesso ce n'è uno più morbido rispetto alle informazioni che erano state diffuse fino ad ora. Le prime misure riguarderanno solo le ville, non gli immobili urbani, aveva detto ieri Berlusconi. E in più c'è la lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, una lettera della quale non si sono avute conferme ufficiali, che inviterebbe quindi il governo a tener conto del parere delle regioni. Berlusconi dice di non aver ricevuto questa lettera. Appunto, fatto sta che questa mattina si sono riuniti i governatori delle regioni e ora inizia la conferenza Stato-Regioni. In collegamento da Roma c'è Andrea Viali. Andrea. Alessandra, l'incontro sta cominciando, ma è difficile capire se si riuscirà ad arrivare oggi ad un accordo, ad un'intesa, intesa auspicata, che sarebbe stata auspicata, come dicevate, anche dal Capo dello Stato e che è stata auspicata poco fa anche dal leader della Lega Bossi. Prima di entrare, i rappresentanti delle regioni, che si erano incontrati a loro volta stamattina, hanno ribadito che sono pronti a confrontarsi con il governo, ma hanno detto no, si sono detti sostanzialmente contrari all'uso del decreto come strumento legislativo per approvare questo piano casa. Tra l'altro le regioni hanno fatto sapere che non hanno ancora avuto modo di leggere il testo e le misure che sono contenute in questo provvedimento. Ma su questo sentiamo cosa ha detto prima di entrare il governatore del Lazio, Marrazzo. pronti a discutere di tutto, ma non utilizzando il decreto, perché poi tra l'altro potrebbe creare davvero dei vuoti normativi, legislativi, in attesa che le regioni poi assumano altri provvedimenti. Ecco, aspettiamo ora dunque di capire quale sarà lo strumento legislativo che il governo deciderà di adottare per questo piano casa, piano che comunque il Premier vorrebbe approvare almeno in parte già nel prossimo Consiglio dei Ministri, quindi dopodomani. Berlusconi ha detto che ieri ha ricordato che il testo circolato nelle ultime ore non era quello previsto dal governo e ha precisato in particolare che il provvedimento, comunque questo piano casa, non riguarderà, come ricordavate da studio, tutte le costruzioni ma soltanto quelle da rifare e le ville mono bifamiliari. Per il momento da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. Grazie Andrea Viali in collegamento da Palazzo Chigi, e passiamo ad un'altra questione che anima o ha animato e continuerà ad animare probabilmente il dibattito politico, ossia il testamento biologico, Alessandra. Eh sì, perché questa mattina in Senato c'è stato il voto su uno degli emendamenti principali, quelli che hanno fatto più discutere, insomma quello che voleva togliere l'obbligo di idratazione e alimentazione forzata. Elisabetta Fiorito, nessuna defezione dalla maggioranza, ci par di capire? No, nessuna defezione dalla maggioranza, ma anche da ieri si vedeva che la maggioranza era compatta, è stata una delle accuse del capogruppo PDL Maurizio Gasparri all'opposizione. Diciamo che ieri l'Aula del Senato ha approvato l'articolo 1 e l'articolo 2 e Palazzo Madama adesso sta votando l'articolo 3 e vince la linea conservatrice. Vengono bocciati tutti gli emendamenti del Partito Democratico, ci sarà l'obbligo di idratazione e alimentazione forzata per i pazienti in fin di vita. No allo stop delle cure, anche se il paziente ha espresso precedentemente di non proseguire con la terapia. In sostanza le cure non potranno essere rifiutate anche se hanno potenziale carattere di accanimento terapeutiche o se sono ritenute dal medico di possibile giovamento. Cancellato qualsiasi riferimento all'accanimento terapeutico, contesta il capogruppo del PD Anna Finocchiaro, l'emendamento era frutto della convergenza delle varie anime del Partito Democratico nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione che, ricordiamo, vieta di imporre i trattamenti sanitari. Ricordiamo invece che per quanto riguarda il testo sul testamento biologico, il provvedimento deve essere approvato entro domani dall'Aula del Senato e quindi le votazioni vanno avanti a ritmi serrati. Studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi ora restiamo a Roma per una vicenda di cronaca. Sì, perché questa mattina un uomo si è dato fuoco in Piazza del Campidoglio. Sono un disoccupato, è stato un gesto dimostrativo. Si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco in Piazza del Campidoglio a Roma. Poi ha spiegato così il suo gesto ai medici dell'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverato con ustioni di secondo grado sul 20% del corpo. 39 anni, pregiudicato, una lunga sfilza di furti alle spalle e qualche precedente per spaccio. Le sue condizioni ora non sono gravi, se la caverà. A salvarlo i soccorsi immediati grazie alla presenza in piazza di polizia e carabinieri in servizio per la visita dei reali di Svezia. Uno degli agenti si è tolto il giubbotto e lo ha gettato sull'uomo per spegnere le fiamme che avevano già coperto volto, collo, braccia e torace. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E in provincia di Palermo un ladro è stato ucciso è rimasto ucciso da un particolare sistema di antifurto. Era un antifurto assai rudimentale, ma si è rivelato tragicamente efficace, quello del quale è rimasto vittima un ladro nel palermitano. L'uomo, Luigi Daniello, 31 anni, è stato centrato al petto da una fucilata calibro 12 esplosa in seguito all'apertura della porta di un ovile. Il grilletto dell'arma, infatti, era stato collegato ad un filo che lo tirava al momento in cui si apriva l'uscio. La mortale trappola è scattata ieri sera nelle campagne di Piana degli Albanesi, quando la vittima, assieme a due complici, ha provato a compiere un furto in un ovile. I suoi due compari sono entrati dalla finestra mentre Daniello ha aperto la porta. A quel punto è partita una micidiale fucilata che lo ha raggiunto al petto. I due complici sono subito corsi dai carabinieri chiedendo di soccorrere il loro amico rimasto ferito, ma quando i militari dell'arma sono arrivati l'uomo era già morto. I due, che poi hanno ammesso di essere andati nel casolare per compiere un furto, sono stati posti in stato di fermo. La procura di Termini Imerese cerca adesso di scoprire chi ha installato quella mortale trappola antifurto. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Si chiama La Costituzione e parla della nostra carta fondamentale, lo spettacolo di Nini Bruschetta in scena da domani al Teatro Quarticciolo di Roma. Lo spettacolo, che torna in scena dopo l'esordio dell'anno scorso, è il risultato di un laboratorio tenuto dal regista e vede in scena un gruppo di cittadini e studenti. E allora sentiamo Nini Bruschetta al microfono di Marta Cagnola. il lavoro è stato proprio impostato per dare un'idea di racconto, e quindi questo chiaramente inchioda lo spettatore all'ascolto, e abbiamo invitato molti costituzionalisti, anche molto anziani o giovani come Ainis, che sono rimasti colpiti, ma questo secondo me è merito proprio della qualità del testo, perché recitando gli articoli ci si rende conto di quanto sono belli, di come riescono a portare in questa chiarezza la loro importanza. È uno spettacolo inevitabilmente legato al territorio e alle persone che l'hanno realizzato, ma avete in progetto di uscire da Roma e di portarlo in giro? Sarebbe molto interessante se si potesse fare per le scuole superiori, un po' dovunque, perché adesso insomma è rinata questa attenzione a quella che una volta si chiamava l'educazione civica, proprio che i cui libri si aprono sempre con la Costituzione. Beh, è bello che un attore affermato e, se possiamo dire, di lungo corso pensi al teatro per ragazzi. Gli spettacoli per le scuole sono quelli che danno più soddisfazione sia agli attori che ai registi, perché sono definiti da una legge, cioè l'attenzione dei ragazzi va catturata entro i primi 3 minuti, perché altrimenti non la catturi più, ma se la catturi diventa un pubblico straordinario, perché è un pubblico che partecipa al rito teatrale, perché è un pubblico puro, se mi è consentita questa parola. Sono le 13:16, questo è il GR Extra Large. Nella prima parte del GR abbiamo parlato del Credit and Liquidity Day che si è svolto in via 20 settembre, sede del Ministero dell'Economia. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice che con i Tremonti Bond e il fondo di garanzia le banche non hanno più alibi e ora è guerra alla restrizione del credito. Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha firmato insieme all'ABI il protocollo d'intesa sui Tremonti Bond. Il fondo di garanzia verrà aumentato tra l'altro a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Abbiamo parlato di piano casa perché il governo in questi minuti sta incontrando le regioni dopo le ipotesi di modifica annunciate ieri dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato di testamento biologico perché è stato bocciato l'emendamento sull'articolo 3, ossia resta l'obbligo di alimentazione e idratazione artificiale. Abbiamo poi parlato di cronaco perché un uomo si è dato fuoco a Roma davanti al Campidoglio. Aiutatemi, ha detto, sono disoccupato. Parliamo invece del disegno di legge sul federalismo fiscale che è stato approvato ieri alla Camera. Ora deve comunque tornare al Senato per l'ultimo passaggio. Per l'attuazione vera e propria bisognerà aspettare il 2016. Ci vorranno infatti 2 anni per fare i decreti attuativi e 5, insomma, per metterli concretamente in pratica. Noi vediamo adesso però di andare al di là del dato politico pur importante, ossia che il Partito Democratico su questo disegno di legge si sia astenuto, l'Italia dei Valori abbia votato a favore e tra l'opposizione sostanzialmente solo l'UDC ha votato contro, e andiamo sulla concretezza di questo provvedimento. La novità principale è che i trasferimenti statali alle regioni non ci saranno più, le regioni avranno un mix di tributi propri e compartecipazioni. Ma allora, se le regioni non avranno più i soldi dallo Stato, che cosa potranno fare? Imporranno nuove tasse oppure quelle che già esistono confluiranno in altro modo nelle casse regionali? Lo abbiamo chiesto a Luigi Lovecchio, che è un commercialista ed esperto del Sole 24 Ore. Diciamo che la massa delle risorse che prima passava attraverso i trasferimenti oggi passerà attraverso quelli che sono chiamate compartecipazioni ai grandi tributi erariali, in primo luogo l'IVA. Questo significa che una parte del gettito che oggi è riscossa dallo Stato a titolo di IVA verrà invece devoluto direttamente alla Regione. A questo si aggiungeranno le addizionali all'IRPEF, che però già adesso, anche adesso esistono e che serviranno a finanziare anche esse le funzioni fondamentali delle regioni. Quindi fondamentalmente per tutto ciò che riguarda le funzioni fondamentali svolte dalle regioni non ci saranno nuovi tributi, non ci sarà l'imposizione di nuovi tributi, che pure è prevista dalla legge di delegazione, però limitatamente a servizi diversi dalle funzioni fondamentali. Quindi non ci dovrebbero essere nuove tasse con il federalismo fiscale? No, non ci dovrebbero essere, oltretutto c'è un articolo esplicito, chiaro sul punto, che prevede che tutta la riforma avvenga sostanzialmente a costo zero per i contribuenti, quindi senza l'incremento della pressione fiscale. Lei prima citava l'IVA, ma mettiamo il caso di una regione che ha meno lavoratori autonomi rispetto ad un'altra, quindi in proporzione avrà meno introiti dall'IVA. In questo caso questa regione che cosa può fare? è proprio per cercare di equilibrare la situazione tra regioni con bassa capacità fiscale e regioni con elevata capacità fiscale, intendendosi per capacità fiscale proprio la ricchezza prodotta e quindi l'idoneità a generare gettito di tributi. È previsto questo fondo perequativo, che è appunto un fondo al quale accedono le regioni più povere per raggiungere il livello delle prestazioni fondamentali sui servizi fondamentali che sono resi invece dalle regioni più ricche. Insomma, non ci saranno discriminazioni fra cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda se vivono in una regione più ricca o meno ricca? Non dovrebbero esserci, ovviamente il condizionale è d'obbligo, perché siamo in presenza semplicemente di una legge delega che prevede un percorso assai complicato e lungo di attuazione e che consente una serie di opzioni al legislatore delegato. Solo dopo che saranno emanati i primi decreti attuativi sarà possibile dare un giudizio un po' più approfondito. E sul federalismo il commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Dunque, da ieri l'Italia è un po' più federale, ma che cosa cambierà e quando con il federalismo fiscale? Dopo l'approvazione definitiva del Senato ci vorranno 2 anni per i decreti attuativi e altri 5 di transizione. La chiave dell'intero provvedimento sta in un passaggio molto difficile. I servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza sono oggi coperti da trasferimenti statali incrementati ogni anno sulla base della spesa storica. Con il federalismo fiscale le regioni dovranno pensarci con tributi propri o con partecipazioni e imposte nazionali come l'IVA, ma non più sulla base della spesa storica che premia gli inefficienti, ma sulla base dei costi standard della regione più efficiente. Un fondo perequativo poi compenserà le eventuali differenze. Insomma, chi spreca dovrà renderne conto ai propri cittadini direttamente, ai quali magari sarà costretto a chiedere più tasse. L'obiettivo però è quello di pagarne meno di tasse, soprattutto nelle regioni che trasferiscono allo Stato più risorse di quelle che investono nel proprio territorio. E dunque non dovrà più accadere che la stessa prestazione medica costi 2 in Lombardia e magari 10 nel Lazio o in Calabria. Ma per questo si dovrà passare dalle spese storiche, cioè a piedi lista, ai costi standard più efficienti. Rinsavire da vizi radicati e interessi diffusi poco trasparenti, difetti secolari. Cambierà tutto in pochi anni? Speriamo. E l'appuntamento con Ferruccio De Bortoli su Radio 24 è come sempre tutte le mattine, quindi anche domani alle 8.30 con il suo commento quotidiano, l'Asterisco. Ci spostiamo all'aeroporto milanese di Linate, dove Alitalia dà il via a nuove offerte sulla tratta tra il capoluogo lombardo e Roma. Marco Lignana, quali sono queste offerte? Sì, buongiorno. Appunto, dopo l'inaugurazione della tratta ad alta velocità via treno da Roma a Milano, ecco la risposta della nuova Alitalia. Le novità, come avete detto, sono tutte sulla tratta tra Linate e Fiumicino. Alla presentazione, ancora in corso, ci sono il presidente Colaninno, l'amministratore delegato Sabelli e il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ha tra l'altro raccolto la telefonata di congratulazioni del premier Berlusconi. Quali sono le offerte? Mi chiedevate. Prima di tutto fino a 44 collegamenti giornalieri, con un volo ogni 15 minuti nelle ore di punta. Poi la possibilità di usare il servizio volo più noleggio auto con autista oppure di usufruire del parcheggio direttamente acquistabile sul sito Alitalia. Altre novità riguardano le tariffe, c'è la semplificazione a sole 4 fasce di prezzo. E infine un occhio all'ambiente con l'ingresso di nuovi Airbus che abbatteranno le emissioni dannose di circa il 40%. Ma adesso sentiamo le parole del presidente Colaninno ai nostri microfoni. Inauguriamo una fase nuova di Alitalia. Abbiamo il primo aereo nuovo dopo tanti anni. L'altro punto è che abbiamo trovato un accordo dove noi valorizziamo Linate e accettiamo e siamo contenti di accettiamo la concorrenza di incrementare la nostra presenza su Malpensa a favore di quei tanti clienti, straordinari clienti, imprenditori, piccoli, grandi, medi, viaggiatori, turisti, eccetera, eccetera, che sono propri di quest'area. Grazie allora al nostro Marco Lignana, collegato dall'aeroporto milanese di Linate. Come diceva nel collegamento, insomma, l'Italia ha un occhio all'ambiente in questo momento, ma non solo all'Italia. Sì, ne parliamo perché dal 1 aprile al 3 alla Fiera di Roma c'è Ecopolis, che è un summit internazionale sulla città sostenibile. Ha seguito la presentazione di Ecopolis per noi Paola Anania. Paola, qualche dato interessante? Sì, indubbiamente dei dati interessanti che sono stati anticipati questa mattina durante la presentazione della fiera internazionale che si terrà qui a Roma sono stati presentati in modo particolare dall'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dati che riguardano la sostenibilità delle nostre città, la qualità ambientale della vita nelle aree urbane italiane. Roberto Caracciolo ci ha anticipato qualche dato proprio del rapporto che verrà presentato ufficialmente tra qualche giorno. Sentiamo. Abbiamo senz'altro sul piano dei rifiuti ancora una situazione non certamente soddisfacente, in parecchie città c'è ancora una produzione che aumenta troppo. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, sulle 33 città campione solo 4 hanno avuto meno di 35 superamenti dei limiti giornalieri. E come segnale così di speranza, cioè positivo, c'è da dire che è diminuito il consumo di acqua pro capite in queste città. Il rapporto dell'ISPRA, il rapporto completo, sarà presentato in occasione della fiera di Ecopolis che, come ricordavate, sarà aperta a Roma il 1 aprile e terminerà il 3 aprile. Per ora è tutto. Grazie Paola Anania. Noi rimaniamo sui temi ambientali per parlare di Venezia, Alessandra. Sì, perché a Venezia si cercherà di produrre energia elettrica dalle microalghe allevate in laguna. Si tratta della prima sperimentazione al mondo di questo tipo. Ce ne parla la nostra corrispondente. Forse saranno le alghe a salvare Venezia dall'inquinamento e a fornire energia elettrica completamente pulita. Vicino al porto della città lagunare, infatti, nel giro di poco più di 2 anni dovrebbe sorgere una centrale bioelettrica ad emissioni zero, in grado di produrre elettricità dalle microalghe che già normalmente abitano le acque lagunari. L'annuncio dell'avvio della sperimentazione, che è la prima al mondo per la produzione di energia ad uso industriale e domestico, è stato dato dall'autorità portuale di Venezia, che ha messo a punto il progetto con la Enalg, società specializzata in energie rinnovabili. Il progetto di centrale bioelettrica a microalghe sfrutta un brevetto americano della Solena Group, che fino ad oggi è stato utilizzato per produrre biodiesel. Per l'impresa veneziana ci vorranno all'incirca 200 milioni di euro. Le alghe verranno allevate a Marghera in enormi cilindri di plastica per un'estensione di 12 ettari e produrranno energia attraverso un processo di gassificazione. La centrale dovrebbe garantire annualmente circa 40 megawatt di potenza, tanto da rendere autosufficiente il porto e fornire elettricità anche a mezzo centro storico. Inutile dire che il Comune di Venezia ha già salutato con grande interesse la sperimentazione. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Le banche non hanno più alibi sul credito alle imprese, lo dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. I banchieri firmano con Tremonti l'accordo sui bond e sale ad 1,6 miliardi il fondo di garanzia. Piano casa, il governo incontra le regioni dopo le ipotesi di modifica. I presidenti dicono disposti a discutere, ma non si procede per decreto. Testamento biologico bocciato, l'emendamento sull'articolo 3 resta l'obbligo di alimentazione e idratazione artificiale. All'Italia risponde alle ferrovie, nuove offerte sulla tratta Milano-Linate-Roma, un volo ogni quarto d'ora e procedure velocizzate per l'imbarco. Sulla crisi Obama dice spiragli di miglioramento, usciremo dalla recessione. Un uomo si dà fuoco a Roma davanti al Campidoglio, aiutatemi, sono disoccupato, ha detto ai soccorritori. Usciremo da questa recessione, ma ci vorrà tempo e pazienza, così ieri il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, secondo il quale iniziano già a vedersi segnali di miglioramento. Il presidente ha difeso con forza la strategia anticrisi, una strategia, detto, a vasto raggio, disegnata per attaccare questa crisi su tutti i fronti. Accusato di spingere l'incremento del debito pubblico, Obama ha fatto sapere che verranno ridotti i fondi per la difesa e per la sanità, ma non solo di economia ha parlato, Alessandro. Ha parlato parlato anche dell'emergenza narcotraffico, in particolar modo ha annunciato un piano di $700 milioni per fare guerra al narcotraffico. Entro un mese e mezzo centinaia di militari americani saranno inviati a presidiare il confine con il Messico. Il piano di Obama avrà ripercussioni anche sulla malavita organizzata italiana e soprattutto sulla 'ndrangheta, che ha rinsaldato nuove alleanze con questi cartelli messicani. Qui si è spostato il baricentro dei traffici di stupefacenti, conferma Vincenzo Macri, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Sua, fra l'altro, è la relazione sulla 'ndrangheta che è stata consegnata al procuratore Piero Grasso. E allora sentiamo l'intervista di Raffaella Calandra a Vincenzo Macri. C'è una recente operazione antidroga della DDA di Reggio Calabria, fatta in collegamento con l'autorità giudiziaria statunitense, che ha dimostrato proprio la sinergia tra 'ndrangheta calabrese e la criminalità del cartello del Golfo messicana, che è quella in questo momento più specializzata sull'argomento droga. Quindi questo ci ha fatto capire come i calabresi, che tradizionalmente erano alleati dei narcos colombiani, adesso hanno stretto alleanza anche con i messicani, che in questo momento hanno preso il posto dei colombiani nella gestione del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti. Non a caso, proprio l'anno scorso, sia i narcotrafficanti del cartello del Golfo messicano che l'andrangheta furono inseriti dal governo degli Stati Uniti nella lista nera delle organizzazioni criminali più pericolose per la sicurezza degli Stati Uniti. E in questa lista c'è l'andrangheta tutta, più tutti gli appartenenti del cartello aregliano, Edoardo Aregliano, Francisco, Carrillo, eccetera, che fanno parte proprio di questo cartello messicano. Oggi questo cartello, ripeto, gestisce il traffico di cocaina verso gli Stati Uniti, ma nello stesso tempo ha caratterizzato la sua attività con una violenza senza pari. Si parla di migliaia e migliaia di omicidi avvenuti proprio per la gestione del controllo di questo traffico proprio al confine con gli Stati Uniti. E questo ha preoccupato molto le autorità statunitensi. Questa nuova alleanza rispetto ai vecchi rapporti con i narcotrafficanti, soprattutto colombiani, è dovuta a ragioni esclusivamente di affari, cioè ad un potere crescente di questi nuovi gruppi, oppure anche ad una maggiore pressione sui gruppi colombiani? I cartelli colombiani sono stati colpiti soprattutto dopo l'arresto di Salvatore Mancuso, hanno avuto un calo di potere e di peso nel traffico della cocaina mondiale, anche se la Colombia continua a essere la produttrice numero uno di cocaina nel mondo. Però il baricentro si è spostato verso il Messico e i calabresi si alleano con chi può consentire loro di fare affari. Questi rapporti così stretti di affari tra l'andrangheta calabrese e i cartelli prima colombiani, ora anche messicani, sono di volta in volta gestiti con trasferte ad hoc, oppure è possibile parlare anche di una presenza stabile? Ci sono state e probabilmente ci sono ancora. Coluccio stava in Canada, collegato con i Contreras Caruana, Pannunzi stava stabilmente in Venezuela, Scali sta stabilmente in Colombia, quindi c'è una presenza stabile di calabresi che sono addirittura all'interno dei cartelli colombiani, quindi a contatto diretto con i produttori e i fornitori di cocaina. E questa è un po' la caratteristica di estrema mobilità dell'andrangheta, che realizza una presenza in tutti e cinque i continenti, che quindi le consente di essere presente su tutti i mercati più importanti del mondo di materie illecite di qualunque genere. Sappiamo che storicamente i rapporti privilegiati dell'andrangheta con i narcotrafficanti, soprattutto colombiani, erano dettati soprattutto da questa caratteristica atavica delle famiglie calabresi di essere così chiuse al proprio interno e quindi di non avere tradizioni di pentitismo. E questa ancora una volta la caratteristica principale che porta l'andrangheta a rinsaldare nuove alleanze anche con i narcotrafficanti messicani? Questa è una delle componenti dell'affidabilità dell'Andrangheta, la capacità di non avere dei collaboratori che possono svelare traffici così importanti, ma non è l'unica. L'altra caratteristica è una illimitata disponibilità di denaro contante, per cui fanno i pagamenti in anticipo, sono affidabili perché la loro parola è sempre una parola che vale, che pesa, hanno i contatti giusti in tutto il mondo, è un'affidabilità che si sono creati nel tempo, che ha consentito anche di recuperare sia i siciliani che i camorristi sui mercati internazionali. Ed era Vincenzo Macri, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, che molto si occupa di 'ndrangheta, intervistato dalla nostra Raffaella Calandra. Ora andiamo all'estero, perché una visita breve, quella del presidente sudanese Omar el-Bashir al Cairo per un colloquio con il suo collega egiziano Hosni Mubarak. Contro al-Bashir, che è espulso dal Sudan alle organizzazioni umanitarie, lo ricordiamo, c'è un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale. Ad accogliere al Cairo il leader sudanese Omar al-Bashir, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità in Darfur, c'era all'aeroporto il presidente Hosni Mubarak. È la seconda visita all'estero del presidente del Sudan da quando la Corte dell'Aia, che non è riconosciuta da diversi paesi arabi, tra i quali l'Egitto, ha emesso contro di lui un mandato di cattura. Dopo la visita lampo in Eritrea, al-Bashir è volato al Cairo per parlare con Mubarak ed ha annunciato la sua partecipazione al vertice arabo di Doha il 30 marzo. E con grande tempismo è arrivato via internet ieri un messaggio dal numero 2 di Al-Qaeda, l'egiziano Ayman al-Zawahiri, che incita i sudanesi a prepararsi per la guerriglia contro i crociati dopo la condanna di al-Bashir. L'ideologo di Al-Qaeda aggiunge che al-Bashir deve scegliere la strada del jihad e abbandonare le sue manovre politiche o il Sudan farà la fine della Somalia e dell'Iraq. Intanto l'ONU lancia un altro allarme. In Darfur oltre 1 milione di persone resteranno senza cibo entro maggio. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Diamo spazio ai libri adesso. No, scusa. Ai giornali. Confusione editoriale, insomma. Giulia Crivelli, però dai giornali ci spostiamo su internet in realtà. Sì, c'è questa continua commistione. Guardavo stamattina la rassegna stampa della televisione, visto che parliamo di media, e tutti riprendevano questi articoli di Independent e Guardian. L'Independent e Guardian da 2 punti di vista, però fanno capire come l'Inghilterra, anche le istituzioni, si stiano interrogando sul come interagire con internet. Da una parte il Guardian segnala che c'è una grande riforma in atto nella scuola inglese, forse la più grande da moltissimo tempo, e questa in parte in uno dei dettami di questa riforma è che gli studenti dovranno studiare anche che cos'è Twitter, che cosa sono i blogs, che cos'è Wikipedia, magari persino usare Wikipedia al posto di un'enciclopedia tradizionale, magari della mitica britannica. Addirittura questo potrebbe sostituire... Sì, anche se Giulia non mi fiderei così tanto. No, infatti. E questo naturalmente potrebbe anche sostituire alcune altre parti della storia, perché poi il tempo è limitato, quindi per esempio addio allo studio approfondito dell'età vittoriana. Sono le cose che si dovrebbero studiare nella scuola elementare, quindi diciamo un po' all'acqua di rose, poi ognuno approfondisce come vuole negli anni successivi, però è comunque già abbastanza significativo. L'Independent invece parte da tutta quella parte di internet che è il social networking, perché Facebook ha destato molto l'interesse anche del governo. Il governo britannico vorrebbe infatti creare un database per poter controllare tutte queste reti di social network, o meglio, controllare tutti quelli che sono iscritti, cioè sarebbe uno strumento fantastico per sapere un sacco di cose su tutti i cittadini, onesti e non. Giulia, invece il Wall Street Journal ci parla di Ungheria, perché e in che modo? Sì, è proprio il titolo della prima pagina. Il problema dell'Ungheria, che è uno dei nuovi paesi dell'Unione Europea, che per scrive il Wall Street Journal, per qualche anno è stato visto come la grande frontiera, le nuove locomotive veloci dell'Europa, in realtà sappiamo che sono economie un po' fragili. L'Ungheria in particolare ha il problema delle pensioni, perché c'è un sistema pensionistico addirittura molto, ma molto più arretrato di quello italiano. Ci sono sono, vengono concesse con grande facilità e continuano ad aumentare le persone che percepiscono una pensione. Naturalmente per finanziarle si è fatto ricorso anche ad alcuni fondi pensione, sappiamo come sono andate le borse, quindi secondo il Wall Street Journal è addirittura una bomba a tempo questa delle pensioni per l'Ungheria. Sia Wall Street Journal che Financial Times dedicano poi ampio spazio anche ai problemi della Romania, che ha grossi problemi con dei prestiti concessi dal Fondo Monetario Internazionale, e naturalmente alla Repubblica Ceca, dove sappiamo il Premier ha perso la fiducia del suo governo e quindi probabilmente si dovrà trovare un sostituto o andare magari a elezioni anticipate. Grazie Giulia Crivelli anche per oggi. Adesso dai giornali passiamo davvero ai libri, Alessandra. Sì, allora si intitola Remedia Amoris, l'ha scritto Gianfrancesco Turano, pubblicato da Cairo Editore. Un mix fra un'indagine giudiziaria e storie personali. Protagonista del romanzo è un magistrato, come ci spiega lo stesso Turano. La protagonista è Mara Mattei, un sostituto procuratore di Bologna, che si trova a indagare sulla sparizione di una sua vicina di casa, che è la giovane moglie del figlio di una famiglia di imprenditori locali. È lei a scoprire in qualche misura questo delitto e cerca di capire se è una sparizione dovuta a un omicidio oppure ad altri fattori. Questo è un po' l'inizio della storia, il resto si intreccia con delle vicende private. Il magistrato Mattei è uscito da una storia d'amore molto sfortunata, molto dolorosa per lei, e fa fatica naturalmente a tenere il passo con il suo lavoro. Che cosa prevale di più nel romanzo? L'aspetto dell'indagine, il poliziesco, il giallo, o l'aspetto privato, quindi i sentimenti personali? No, prevale l'aspetto dei sentimenti personali, attraverso una concatenazione di amori che non sono mai corrisposti uno con l'altro. Eppure si ritorna nei tuoi libri sul crimine, sull'aspetto giudiziario. Ricordo Ragù di Capra, che era una storia a metà fra Milano e la Calabria, c'era di mezzo l'Andrangheta, quindi ancora una volta si ritorna sul fronte giudiziario oltre che su quello degli aspetti personali. Come mai? Ma c'è un grande interesse, e io stesso vivo questo interesse verso il mondo del crimine. Io stesso mi sono chiesto da che cosa sia mosso, probabilmente dal fatto che la nostra società è in un eccesso di civilizzazione, per cui il contatto con il crimine, che una volta era una cosa molto frequente, molto normale, adesso è diventato mediato. Questo crea in molti di noi una strana forma di nostalgia. Bentornati al GR Extra Large. Abbiamo parlato in questa edizione del Credit and Liquidity Day, l'incontro tra Tremonti, le banche e le imprese. Abbiamo parlato del piano casa, sembra allontanarsi l'ipotesi di un decreto. Abbiamo parlato di testamento biologico perché è stato bocciato l'emendamento sull'articolo 3, quindi resta l'obbligo di alimentazione e idratazione artificiale. Abbiamo parlato anche delle nuove offerte all'Italia sulla tratta Milano-Linate-Roma. Invece ora parliamo di scuola. La notizia era ampiamente annunciata perché è contenuta in finanziaria. Complessivamente ci saranno 42.000 tagli ai posti di lavoro al personale docente. Ora però che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che si sono avuti i dettagli su questi tagli con le tabelle allegate al decreto interministeriale. I tagli sono arrivati. L'incontro di ieri tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati ha permesso di conoscere l'entità della sforbiciata sul personale docente della scuola italiana, aprendo interrogativi che potrebbero preoccupare molte famiglie. Cominciamo dai numeri. Dall'anno prossimo 37.000 posti coperti oggi da insegnanti precari saranno eliminati. La cifra sale a 42.000 se si aggiungono i 5.000 tagli, per cui si valuterà a settembre, ma che il Ministero in realtà considera sicuri. Il 50% delle cattedre saranno cancellati al sud, in particolare in 4 regioni: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Quasi 10.000 posti saranno tagliati nelle elementari, 15.500 nelle medie, 11.300 nelle superiori. E questo nonostante le preiscrizioni indichino un aumento di 4.100 alunni nella scuola primaria, di 10.600 nella scuola secondaria, mentre le superiori perderanno ben 26.700 studenti. Come si arriva dunque a questa brusca cura dimagrante? Grazie all'introduzione della riforma del maestro unico, all'applicazione della legge Moratti sulle medie e all'aumento del numero di allievi per classe. Tutto bene dunque? No, perché i calcoli sono stati fatti sulla base delle iscrizioni di quest'anno, mentre le preiscrizioni per l'anno prossimo registrano proprio al sud una crescita del tempo pieno e, in generale, la preferenza di 6 famiglie italiane su 10 per la formula intermedia, quella a 30 ore. Massimo Di Menna, UIL Scuola. Si è determinato un taglio lineare fatto con la calcolatrice senza andare a riverificare la ricaduta sull'organizzazione didattica. Per la scuola ex elementare, per la primaria, si darà questo grande problema di non poter dare, di non avere certezza di dare la risposta a queste richieste che invece nella circolare delle iscrizioni erano state individuate. E non è neanche stabilito un criterio in base al quale, se non c'è disponibilità di organico, a quale scuola dare una risposta positiva e a quale una negativa. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato il sindaco di Milano Letizia Moratti e altri 21 tra assessori e dirigenti a risarcire le casse dello Stato per aver affidato incarichi interni a collaboratori esterni. 78.700 euro. Tanto deve sborsare di tasca sua il sindaco di Milano, Letizia Moratti, per aver sprecato denaro pubblico utilizzando collaboratori esterni. Lo ha deciso la Corte dei Conti della Lombardia. Assieme al sindaco dovranno rimborsare il comune anche altre 21 persone tra assessori e dirigenti, fra loro l'ex direttore generale Piero Borghini. I giudici contabili hanno quindi condannato l'intera giunta, ma il danno erariale è stato ridimensionato. La richiesta iniziale era di un risarcimento di 7 milioni di euro, ma alla fine si è scesi a 261.000, 79.000 a carico del sindaco, 96.000 per Borghini, 51.000 da dividere fra gli assessori e 9.000 per l'ex capo di gabinetto Alberto Bonetti Baroggi. È stata invece rigettata l'accusa del danno di immagine. La vicenda è nota ed è oggetto anche di un'indagine della Procura della Repubblica di Milano. A inizio mandato il sindaco Moratti aveva assunto senza concorso numerosi collaboratori. Il PD aveva protestato e presentato un esposto, sostenendo che alcune delle persone incaricate erano prive dei titoli professionali adeguati. Ora la sentenza della Corte, in attesa che si pronunci anche la Procura di Milano. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Le banche non hanno più alibi sul credito alle imprese, lo dice la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Piano casa, Berlusconi apre ai presidenti delle regioni, non è detto che il decreto sia lo strumento giusto. Testamento biologico bocciato, un emendamento, resta l'obbligo di alimentazione e idratazione artificiale. All'Italia, nuove offerte sulla tratta Milano-Linate-Roma, un volo ogni quarto d'ora. Pochi minuti fa, a Bari, ucciso un ex collaboratore di giustizia per strada, vicino al centro. E un uomo si è dato fuoco a Roma davanti al Campidoglio. Aiutatemi, sono disoccupato, ha detto ai soccorritori. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13.